A bordo campo di Dario Ricci. Si torna a pedalare di brutto, qui a bordo campo, qui a Radio 24. E allora, parliamo oggi di ciclismo e, come d'obbligo che sia, ospite il nostro esperto di ciclismo, Dario Ceccarelli. Benvenuto Dario. Grazie Dario e buongiorno a tutti. E il nostro corrispondente, quello che è stato il corrispondente di Radio 24 all'ultimo Tour de France. Ben ritrovato Ivan Basso. Grazie, buongiorno a tutti. Senti, fai ancora il ciclista o ci vuoi rubare il mestiere? Chiariamolo subito, No, faccio ancora il ciclista e spero di farlo meglio nel prossimo Giro d'Italia che non all'ultimo Tour. Ivan, partiamo subito perché 2012, che vuol dire soprattutto Giro d'Italia, poi adesso attenzione che Dario Ceccarelli fra un po' ti incalza. Ma il 2012 inizierà a febbraio con due corse da un giorno, Trofeo Laigueglia e Gran Premio di Lugano, per proseguire con la Parigi-Nizza, Vuelta a Catalunya, Giro del Trentino ed arrivare al primo grande obiettivo dell'anno che è il Giro d'Italia. È una stagione che è molto simile a quella del 2009 e del 2010, che hanno portato ad ottimi risultati, quindi conto di ripetermi. Molti dicono che è un giro un po' troppo facile per te, che invece ami pendenze diverse. Ma è un giro sicuramente non duro come quello del 2011 e nemmeno come quello del 2010, è un giro molto insidioso, però è un giro che vincerà comunque il corridore più forte nelle tre settimane. Devo dire che dei tre percorsi tra Giro, Tour e Vuelta che hanno presentato, quello che più mi piace, quello che più ha dato le mie caratteristiche è quello della Vuelta. Ma è la terza grande corsa tappe dell'anno, l'ultima, e quindi bisogna innanzitutto pensare alla prima, che è il Giro d'Italia. Secondo te va pure alla Vuelta questa, Cecca? Io lo vedo già con l'occhiolino che brilla, cioè, chissà. Comunque, intanto proviamo un po' a parlare ancora di questo Giro d'Italia. È la prova dove tutti ti attendono e ecco, l'anno scorso è stato un anno, adesso lo possiamo dire francamente, non brillantissimo. Tu, ecco, che cosa hai imparato dall'anno scorso? Che cos'è che vuoi cambiare? Ma come prima cosa ho imparato ad evitare le griglie per lo scolo dell'acqua, che così evito di stare fermo 20 giorni prima di un grande appuntamento, la caduta che chiaramente ha compromesso l'unico obiettivo, il grande obiettivo del 2011, che era il Tour. Io credo che un avvicinamento come è stato ha sicuramente creato grossi problemi per la preparazione e a catena una serie di piccoli problemi che poi ho trovato anche durante la corsa. Però, ok, questo è non si può cambiare. Io credo che per questa stagione non bisogna tanto pensare alla passata, ma bisogna lavorare duramente, come ho fatto del resto da sempre. Lavorare è quello che poi porta ad ottenere risultati. La tua squadra, la Liquigas, si evidenzia particolarmente per il fatto che ci sono molti giovani. Ecco, tu in questa squadra diventi un po' la chioccia, il leader di riferimento. Come ti senti in questo ruolo di, così, no, grande vecchio non lo dico per carità, un simpatico fratello maggiore, però... Ma sicuramente è una cosa molto bella il fatto che siamo la squadra con l'età media più bassa. Oltretutto sono ragazzi giovani ma che sanno già vincere, questo è molto importante. Atleti come Os, come Viviani, come Sagan, atleti molto giovani ma già molto vincenti. Ma bisogna anche pensare che hanno bisogno anche di quelli più grandi per vincere. È una, secondo me, è una sinergia vincente che permette alla Liquigas Cannondale di riuscire ad ottenere un giusto livello all'interno del team per poter andare a conquistare risultati importanti. La sfida dell'anno scorso del Tour mi ha fatto rivenire in mente un ricordo della mia giovinezza sportiva, la sfida di Ivan Lendl a Wimbledon, no? Grande tennista, grande campione, cui mancava solo la vittoria sull'erba più prestigiosa al mondo, e quindi a un certo punto della carriera Lendl concentrò tutti i suoi sforzi su Wimbledon, mancando purtroppo per lui questo grande risultato. Ecco, dal punto di vista psicologico di approccio, avere un unico grande obiettivo in una stagione è una sfida più gestibile da quel punto di vista, oppure si sente di più la tensione del fatto di non poter fallire alla fine? Io devo dire che non ho la prova contraria, però credo che senza l'infortunio di maggio avrei potuto sicuramente fare un tour più bello, non credo con un Cadel Evans forte come è stato, io credo che avrebbe comunque vinto, però potevo sicuramente fare una prova migliore. Quindi non è tanto concentrare le attenzioni in un unico appuntamento, ma per le attenzioni vanno concentrate guardando il percorso, guardando quello che tu hai voglia di fare, guardando quello che la squadra vuole da te, e da lì nasce un po' il programma per la stagione successiva. Senti, nel ciclismo in generale c'è un grosso movimento, un grosso cambio di stagione. Per esempio, noi abbiamo solo due grosse squadre italiane di peso, però 65, ho letto, nuovi professionisti che si affacciano al mestiere del ciclista. Ecco, è un momento di passaggio del ciclismo questo? Non lo so, io credo che per quanto riguarda, io posso parlare della mia squadra, come abbiamo detto, ha un'età giovane media molto bassa, e questo è sicuramente un valore molto importante. Ci sono tantissimi giovani bravi che non sono solo promettenti ma sono già vincenti, e questo fa ben sperare, soprattutto perché molti di questi sono italiani. Quest'anno ciclismo vuol dire anche Olimpiadi, nazionale, certo ci sarà il mondiale, ma c'è anche la grande sfida olimpica di Londra 2012, circuito diciamo non certo tagliato sulle tue caratteristiche, perché più adatto sicuramente ai velocisti, ma il tema nazionale ci fa venire in mente quello che è stato anche un po' una tua battaglia di questi mesi autunnali, no? Sappiamo che la Federciclo ha inasprito le sanzioni per chi è caduto in situazioni di doping nella sua carriera, tanto da escluderlo dalle possibili eventuali convocazioni future in azzurro. Tu a questa norma hai subito detto no, scontrandoti di fatto anche coi vertici federali. Credi ci siano margini di ricomposizione? Credi che ci sia un margine di una mediazione? Oppure pensi che la battaglia al doping debba passare anche per queste misure in fondo estreme? Ma io non era certo mia volontà fare polemica, io ho solo cercato di capire perché, dopo essere stato riabilitato dal punto di vista sportivo, agonistico, quindi vincendo nuovamente un Giro d'Italia, mantenendo le promesse che avevo fatto, cioè quello di pubblicare tutti gli allenamenti, i miei valori del sangue, tutto, credo che ci possa essere l'apertura anche per una riabilitazione dal punto di vista etico, dal punto di vista personale, con un percorso che si può individuare insieme, che la federazione possa, insieme a un atleta che ha avuto dei problemi in passato, possa, con un progetto di riabilitazione sociale legato ai bambini, piuttosto che a un percorso che può durare un certo periodo, e questo periodo di riabilitazione poi lo possa riportare definitivamente così ad una situazione di normalità, che uno abbia la possibilità di così dimostrare di aver capito, non solo in bicicletta ma anche giù dalla bicicletta, che sbagliare è umano, ma che si possa ripartire appunto dopo un percorso a braccetto con gli organi federali. Questo io credo che è una cosa, a mio parere, che si può studiare, si può cercare di preparare per riabilitare un atleta che ha avuto un problema e che così non deve per forza chiudere in un brutto modo la sua carriera. Altro tema caldo, e fra poco ti consegno alla voce di Dario Ceccarelli, che di questi duelli fra fratelli di maglia ne ha visti tanti in carriera, è quello della tua convivenza con Vincenzo Nibali, no? Il tuo delfino, però anche altro grande campione, grande speranza azzurra, capacissimo, l'ha dimostrato proprio alla Vuelta, di saper vincere le grandi gare a tappe, e lo abbiamo visto anche al Giro, al Tour. Insomma, quest'anno ve le date di santa ragione o continuiamo con la storiella che siete amici, che vi volete bene, date in bici in tandem? Ma guardate, voi i radioascoltatori devono capire che i ciclisti non hanno solo le gambe ma hanno anche una testa e un cervello, che se viene usato un atleta capisce e sa come deve comportarsi, come deve correre. Io credo che in questo momento in gruppo c'è solo un atleta che può permettersi di correre come leader unico, e questo atleta è Contador, è l'unico che può assicurare, chiaramente non al 100%, però ci sono buone probabilità che se lui corre una grande corsa a tappe la vinca. Tutti gli altri sono sicuramente più forti a correre in due usando il cervello. Io credo che io e Vincenzo siamo due atleti che hanno due caratteristiche diverse, abbiamo vinto in modi diversi, uno ha un atteggiamento più spregiudicato, l'altro è più calcolatore, più vince più di forza. Quindi sono due modi di correre diversi che sono perfettamente compatibili. Come carattere vi amalgamate bene, cioè oltre che tecnicamente? Ma il carattere sicuramente, ma quando sei in bicicletta poi bisogna così capire la situazione, e siamo professionisti, quindi uno sa riconoscere quando il suo limite è più basso rispetto a quello dell'altro e si mette al servizio. Niente, cerca, non ce la facciamo a farli litigare questi due, è più facile litighiamo io e te se andiamo avanti noi così. Ci impieghiamo poco per toglierci le domande. No, volevo parlare di una cosa, aveva accennato a Contador, che è il faro del ciclismo mondiale, certo. E che sia un grandissimo campione non si discute, però questa faccenda della positività del 2010, che ci siano continui rinvii sulla sentenza, ecco, fa un po' discutere, tu cosa ne pensi? Io penso esattamente quello che ho detto poco fa, che Contador è l'atleta più forte al mondo per le grandi corse a tappe. Per parlare di quella vicenda bisogna conoscere bene i dettagli, io non li conosco e quindi non è sicuramente mia competenza. Contador è un mio amico e quello che io spero per lui è il meglio, che lui chiaramente possa correre al più presto tranquillo e libero da pensieri che non sono quelli, i pensieri possono essere quelli dei suoi avversari, non altri. Contador è sempre un po' enigmatico, ci sfugge un po', tu che lo conosci bene dal punto di vista proprio anche umano, oltre che tecnico, che ormai lo sappiamo, è un mostro, va bene, ma dal punto di vista umano? È un ragazzo normalissimo, un ragazzo che proprio per questo ne parlo così, perché è un ragazzo che merita. Un ragazzo che vive una quotidianità come ogni ragazzo di 25-26 anni, e questa è la sua cosa bella, pur essendo uno dei migliori atleti al mondo. Parlo, e non parlo di ciclismo, ma di sport in generale. Con Twitter vi mandate messaggini continuamente? No, tra di noi ci mandiamo messaggi sul numero telefonico, non che vedano qualche centinaio di migliaia di persone. Beh, occhio però, perché a qualcuno è capitato davvero. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo con Dario Ceccarelli e col nostro ospite d'onore Ivan Basso. Senti, questa storia della bistecca di Contador mi fa venire in mente anche la tua attenzione maniacale, come giusto che sia, per la preparazione fisica, soprattutto per il peso. T'ho visto prima al bar scegliere meticolosamente cappuccino e brioche dietetica, perché insomma per salire sullo Stelvio, su quelle altre montagne, meno zavorra addosso si porta e meglio è. Ecco, da questo punto di vista il 2012 e anche la avere un anno in più fisiologicamente di carriera in più alle spalle, quanto pesa e cosa cambia? Io credo che la capacità di un atleta è quella proprio di per continuare a vincere o continuare ad essere a altissimo livello, è quello di sapersi adattare alle nuove situazioni. Gli anni passano, però non è detto che tu peggiori. La capacità di un atleta bravo è quella di conoscersi, capire cosa ha bisogno, quindi se allenarsi di più, allenarsi di meno, riposare di più, riposare di meno, questo è il segreto. Però io credo che non c'è una regola, è solo la differenza che c'è da un corridore all'altro, quello che uno ha la capacità di ascoltarsi, di capirsi e di riadattare il proprio programma al periodo. Senti, una piccola digressione, non sportiva. L'Italia in questo momento è in un momento un po' difficile della sua storia. Così. Un parere di uno sportivo importante come te, cioè secondo te l'Italia può uscire da questa situazione di difficoltà? Ha ancora la capacità di pedalare per venirne fuori? Gli affamo, Ivan, gli affamo. Io sono ottimista di natura, penso sempre che uno deve cercare di... Io come italiano cerco di svegliarmi al mattino e di fare tutto per bene, di fare il meglio e di andare a letto la sera e consapevole di aver fatto tutto nel modo giusto. Io credo che se ognuno di noi fa questo deve per forza guardare con ottimismo e sicuramente verremo fuori da questa situazione. Però quel giro della Padania, dai, sei andato a fare il giro della Padania. Ma questo è stata, io credo che per noi non era... un discorso di Padania, io ho fatto anche il giro delle regioni da juniores, che era organizzato esattamente dallo schieramento opposto. Per noi era una gara come un'altra, io per vincerlo ho dovuto comunque salire a 440 watt di media nella tappa in Trentino, e a prescindere da chi organizzava, io credo che, come ho detto durante quella corsa, secondo me era sicuramente meglio pensare ad organizzare una corsa in più che non a far polemica su quella, o perlomeno a non far polemica con noi corridori, perché noi stavamo solo e esclusivamente facendo il nostro lavoro. Senti, ritorniamo un po' al ciclismo, al Giro d'Italia. Andranno due squadre italiane al Giro, è rimasta fuori l'Acqua e Sapone con Garzelli, che è un corridore che conosci bene, oltre che siete vicini di casa, eccetera. Ecco, cosa ne pensi in proposito? Ci sono un po' di polemiche, lui ci è rimasto male? Cosa vi posso dire? Io anche qui è molto difficile, perché chiaramente per Garzelli, che è un mio amico, mi spiace molto, però io credo che non è... difficilmente quando ci sono delle decisioni importanti tutte le parti ne escono contente. È chiaro. Mi spiace per il mio amico Garzelli, ma chiaramente gli organizzatori hanno fatto delle scelte che sinceramente non posso giudicare, nel senso che non è mio compito. Senti, parliamo con te che sei uno scalatore di velocisti. Chi sarà il dominatore della stagione di questi che tu di solito vedi e vedi il numero dietro, perché loro arrivano al traguardo e tu giustamente non ti impegni su quegli arrivi mentre li stacchi abbondantemente in salita? Sarà ancora Cavendish, Ushovd? C'è anche questo obiettivo sempre di Londra? Ma io credo che Cavendish, non solo perché è il campione del mondo in carica, ma io penso che Cavendish, Gilbert e Contador sono ancora i tre atleti che partono con il ruolo di favoriti nelle tre discipline. Su questo penso che sono tutti d'accordo. Sceso dalla bici, qual è il tuo campione preferito? Cioè, tu dei campioni di oggi, dello sport mondiale, ce l'hai di qualcuno il poster in camera? No, adesso no. Io ho avuto il poster di Coppi e Bartali, di Moser. Dopo, adesso in camera con mia moglie non posso mettere poster di sportivi, qualsiasi sennò sportivo via, mi butta fuori a me. Senti, a proposito, visto che la figliolanza è aumentata, insomma, come riesci a gestire la tua vita privata con quella di padre, marito, eccetera, eccetera, eccetera? Ma normale, come tanti altri papà che hanno quattro figli, la differenza fa che sono spesso fuori e mia moglie mi sostituisce. Quando sono a casa cerco di fare il papà a tempo pieno. Poi se la deve sbrigare pure con le telefonate di Radio 24 in corsa, pure quello è stato un bel impegno. Senti, che ti è rimasto di quell'esperienza? Dai, diciamoci pure che siamo stati bravi, dai. Bravissimi, bravissimi. È un'esperienza che ripeteremo. Per me, da parte mia, credo che è stata una bellissima cosa, e che tutte le sere, diciamo, una voce in diretta dalla corsa può entrare... così direttamente a chi ascolta. Questa è una cosa molto bella. È più difficile raccontare una corsa o farla? Ma dipende, se stai bene si fanno bene tutte e due le cose. Quando non stai bene, come nel caso del Tour, che ha avuto un rendimento così, c'erano dei giorni bene, dei giorni meno bene, dei giorni male, allora lì le difficoltà aumentano. Però io credo che quando l'impegno è massimo racconti bene anche le sconfitte, perché in bici, come in tutti gli sport, spesso si pensa solo alla vittoria, al primo posto, al successo, ma basta veramente poco per non raggiungere l'obiettivo. Però questo non vuol dire che si è fatto un brutto lavoro. Bisogna accettare anche la sconfitta con serenità e pensare a fare bene la volta successiva. Senti, cerca, che facciamo? Lo lasciamo andare, che qua c'è uno stelvio da scalare, eh? Questo è vero. Dai, però... ti lascio l'ultima domanda. Dai, so che ci è vero, viene. Prima dello stelvio ce ne sono tante altre. Lo stelvio ma le altre è l'ultimo dei problemi. Poi là nevicherà, neanche lo farete, mi sa. Speriamo di no. Questo è... Senti, un'ultimissima domanda. L'ultimo che solo, parla via. Di biciclette, ma in senso più laterale. L'Italia purtroppo, dal punto di vista delle città, le biciclette hanno ancora poco spazio. A Milano c'è un grosso dibattito perché mancano le piste ciclabili, in altre città pure. Ecco, tu che sei un ciclista professionista, che cosa dici a questo proposito? Ma io dico che... per quanto mi riguarda, nel mio paese, nella mia zona, nella mia provincia, abbiamo, così, grazie a tutti. Diciamo, io ho cercato di lanciare l'idea, poi sono stati trovati i fondi, si è cercato di fare appunto delle piste ciclabili, delle zone dove la gente possa andare in bicicletta. Non è così semplice. Io a volte, quando facevo queste richieste, sembrava una cosa di semplice realizzazione, ma come ripeto, poi quando ci sei in mezzo capisci che non è così facile. È chiaro che sarebbe molto bello vedere tanta gente in bicicletta, però bisogna anche capire che per andare in bicicletta ci vogliono le strade sicure, e da noi purtroppo non in tutte le zone queste piste ci sono, e quindi bisognerebbe nel tempo migliorare appunto la viabilità per le bici, e questo sicuramente porta poi la gente ad andare di più in bicicletta. E allora, sicure e vincenti, speriamo, saranno certamente le strade del Giro d'Italia per tutto il ciclismo azzurro, e sicuramente anche per Ivan Basso. Allora Ivan, diamo per scontato che, diciamo, ripasserai da queste parti nel corso dell'annata ciclistica. Intanto grazie per essere stato nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi. E grazie ovviamente a Dario Ceccarelli, il nostro caronte nel mondo dei pedali. Troppo buono, grazie comunque. Ciao. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento, come sempre, è per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Una buona giornata da Dario Ricci.